tutta la fine è passato. Anche il tuo canale presto o tardi, comunque prima di quello che credi, potrà dimenticare. Silvio, lo sai che non sono pulito, ma quella che credi essere la tua grandezza inarrivabile non mi ha mai interessato. Sono solo Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Ti dico Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Soltanto Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Davvero non crederai, oh no, che ha avuto, è che come la sigla di un programma o le occasioni della stand, è un fatto di mercato. Perché Silvio lo sai, che Emilio lo sa, che qui nessuno è pulito, ma quella che dici essere la tua freschezza inimitabile sa di supermercato. Sono solo Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Ti dico Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Soltanto Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. A Silvio lo sai, tutta la fine è passata. Anche il tuo canale presto o tardi, comunque prima di quello che credi potrà dimenticare. Son solo Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Ti dico Raudi, giochi pirici, dirigibili di parole. Stai attento al biscione, linguaggio d'azione, un gioco di parole per il tuo modo di fare. Tanti servi a servizio, il capo è sempre lo stesso, il nuovo fascio è emerso, la TV l'ha trasmesso. La piscia la conosci bene, prima ti sorride, poi ti succhia il sangue dalle vene. Sei solo un buffone della cassa e del padrone, ti puoi sfogare solo nella tua trasmissione. Quando accendi la tele vedi un fatto strano, è un tipo che crede essere il nuovo volto italiano. Perfetto, l'hai detto, e ricomincia nella testa una macina di tutto. Io cambio canale, io lo posso fare, livello 57 è un esempio per capire. Come quando sale e scende la marea, qualcosa porta via, qualcosa crea. Ti trovi ancora faccia a faccia con delle storie pese, che rivelano sempre più delle sorprese. E vai giù di brutto, come un barbatrucco, ti lascio di stucco e ti giochi tutto. Inventati una forma di protesta, boicotta tutto ciò che gli interessa. La inizi tu, inizia la festa e giudica la biscia a prima vista.